punto fermo per il governo italiano e anche un elemento di continuità rispetto al precedente governo, condiviso dalla larghissima maggioranza che ci ha sostenuto in Parlamento, è quello delle conclusioni per quanto riguarda l'Italia del Consiglio europeo. Quindi il programma, come là è stato indicato, sarà il punto di partenza della nostra azione. Rispetto al governo precedente, essendo cambiate le condizioni ed essendoci in questo momento, e farò di tutto per mantenerlo vivo, un consenso più ampio, un clima meno conflittuale, una maggiore volontà di cooperazione tra le forze politiche e le forze sociali, credo che potremo andare più decisamente a fondo in senso buono, fino in fondo, scusate, incisivamente, per quanto il Presidente conosce così bene l'italiano che sa cogliere anche queste sfumature. Per quanto riguarda le riforme strutturali, che già sono state a grandi linee indicate nel programma e sulle quali abbiamo iniziato a lavorare.